You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. You make me so upset sometimes. Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a Indovina chi viene a cena e scusate per la voce visto che sono raffreddata. Questa sera parliamo di due scrittrici, entrambe esordienti, entrambe giovanissime, italiane ma straniere di origine ed entrambe pubblicate da due case editrici prestigiose ma i cui romanzi sono stati pubblicati su Wattpad, la più grande piattaforma community per autori online, una piattaforma con 40 milioni di utenti nel mondo. L'80% dei quali sono teenager e sono teenager anche i lettori di questi due romanzi. C'è una premessa da fare, c'è stato un fenomeno editoriale nato proprio su Wattpad nel 2015, è il romanzo After, scritto dalla 25enne texana Anna Todd, che ha avuto oltre 1 miliardo di lettori online e poi dopo essere stato pubblicato su carta 2,5 milioni di copie vendute in 28 paesi. Quindi non è vero che i ragazzi non leggono, probabilmente, ma i ragazzi leggono molto su queste piattaforme o forse anche sulla carta, adesso che questi romanzi sono scoperti dagli editori e vengono portati sulla carta. Sulla scia di questo successo editoriale si sono mossi quindi alcuni editori italiani, come ad esempio Rizzoli e come Fanucci. Sono i due editori di cui parliamo stasera e uno dei romanzi pubblicato da Fanucci Editore è My Dilemma Is You di Cristina Chiperi. Buonasera innanzitutto Cristina. Buonasera. Benvenuta alla nostra trasmissione. Lei è l'autrice di questo romanzo, la seconda parte, il secondo volume di My Dilemma Is You è in libreria dal 4 di febbraio, quindi siamo addirittura al secondo tomo. Cristina, complimenti, perché lei è giovanissima, giusto? Grazie. Quanti mille. Anni ha? 17. 17 anni, una ragazzina insomma che va a scuola la mattina e mi pare di capire nel tempo libero legge e scrive. Sì, giusto. Da quanto ha iniziato a pubblicare questo romanzo a puntate, giusto, sulla piattaforma? Sì, a puntate. Sì, allora io in generale leggo soprattutto storie, fantasy, anche storie d'amore come Hunger Games, oppure amo particolarmente John Green, soprattutto Città di Carta, quindi diciamo che loro sono i miei riferimenti principali. E, la storia l'ho pubblicata appunto la prima volta su Wattpad quando avevo 15 anni in estate d'agosto, proprio perché mi era venuta un'ispirazione per questa storia grazie alle parole di Selena Gomez della sua canzone My Dilemma, e l'ho ascoltata tantissime volte e mi è venuta proprio l'ispirazione per questa storia e ho cominciato appunto a postare vari capitoli ogni giorno, scrivevo soprattutto di notte e perché era appunto più comodo, e con il tempo poi ho cominciato ad ottenere sempre più lettori, sempre più visualizzazioni, commenti e basta. Siamo arrivati addirittura al secondo volume. Sì. E ci sarà un terzo. Sì, è così. Sì, è una trilogia. Stiamo parlando di letteratura femminile, no? La trama di questo romanzo è il racconto di una trasferta, di una famiglia, no? Di questa giovane ragazza. Esatto. Che si trova a trasferirsi con la famiglia a Miami da Los Angeles. E di tutte le storie correlate agli amici di scuola, agli amori, alle avventure di questa ragazza. Sì, giusto. È un racconto per ragazzini, per adolescenti. Lei ha scritto probabilmente quello che lei legge volentieri e che probabilmente anche gli altri ragazzi leggono volentieri, visto le visualizzazioni e speriamo anche le copie adesso. Sì, sì, esatto. Infatti in questo periodo vanno molto, diciamo, di moda. I ragazzini soprattutto leggono storie d'amore proprio perché sono quelle che appassionano di più, che fanno battere il cuore, e questo credo che sia stato l'aspetto fondamentale, diciamo la cosa più importante per rendere più nota, insomma, la mia storia. Come mai è ambientato questo romanzo tra Miami e Los Angeles, negli Stati Uniti? È tutto americano, con nomi americani. Sì, ho sempre amato gli Stati Uniti, ho sempre sognato di andare lì e magari di vivere la mia vita. E ho sempre amato soprattutto Los Angeles e Miami, proprio perché sono città meravigliose, hanno un clima molto adatto a me, diciamo, e niente, mi piaceva molto l'idea di ambientare lì la mia storia. E però lei vive a Padova, giusto? Esatto, e ha origini sì. moldave, quindi insomma, in realtà mi veniva da pensare, leggendo il suo romanzo, lei già dalla sua vita avrebbe materiale per raccontarci delle storie interessanti, perché i suoi genitori sono arrivati in Italia quando lei aveva 2 anni e quindi avranno avuto una storia anche di emigrazione molto affascinante, interessante. Ha mai pensato di scrivere di questo? Sì, ultimamente sì, ci ho pensato. In realtà sì, mi piacerebbe scrivere molto una storia di come sono arrivati qua. Infatti faccio tantissime domande magari per prendere spunto e chi lo sa, magari in futuro scriverò un libro anche su questo. Lei è arrivata a 2 anni a Padova. Essendo venuta qui comunque a 2 anni, non mi sento proprio straniera, diciamo, proprio perché ho passato la maggior parte della mia vita qua. Ho visto i miei nonni, cioè vedo ogni tanto i miei nonni solamente in estate, perché comunque i miei genitori ci tengono alle mie radici, ci tengono comunque alla loro, alla Moldavia e tutto quanto, quindi comunque li vedo. Però mi sento più italiana proprio perché ho passato tutta la mia vita qui e anche a scuola comunque. Tutti mi trattano, cioè non si rendono neanche conto che io sia appunto straniera. Scrivere è stata una cosa fantastica, anche perché la maggior parte delle persone non se lo sarebbero mai aspettate da me. Che cosa dicono i suoi genitori? Beh, i miei genitori sono contentissimi, diciamo che inizialmente erano un po' contrari a questa cosa, perché comunque passavo le notti a scrivere, quindi andavo a letto molto tardi e magari il giorno dopo a scuola ero stanchissima. Però dopo aver visto il mio successo adesso mi sostengono e mi danno una mano, magari mi danno anche idee per nuove storie e mi sostengono molto. Lei fa il liceo, giusto? Esatto. E immagino che le piaccia studiare perlomeno le materie letterarie. Sì, sì. Ecco, penso faccio che... liceo classico. Fa il liceo classico. E a scuola com'è stata recepita questa sua passione? Beh, in realtà nessuno a scuola lo sapeva, tutti hanno scoperto che appunto avevo pubblicato il libro solamente dopo che siamo tornati dalle vacanze di Natale di quest'anno, quindi quando il libro era già in vendita. E compagni ed insegnanti comunque l'hanno presa molto bene, erano tutti molto orgogliosi di me ed è stata anche una grandissima sorpresa. Che cosa fanno i suoi genitori, se posso chiederglielo? Mia mamma è una consulente commerciale per un'azienda, mentre papà fa il camionista. E quindi saranno molto fieri di questa giovane donna che sta avendo un grande successo. Sì, sì, sono contentissima. Se l'aspettava lei questa cosa quando l'ha chiamata l'editore, come ha reagito? Beh, la prima volta che ho visto il messaggio ero contentissima, perché comunque scrivere è sempre stato, diciamo, un gioco per me, quindi non mi aspettavo tutto questo successo, addirittura di vedere il mio libro nelle librerie. Quindi ero contentissima davvero. Lei diceva Hunger Games e poi John Green, no? Questa sì. È la sua letteratura di riferimento. Pensa, visto che ha concluso, mi pare di capire, di scrivere la trilogia, pensa di continuare a pubblicare su questa piattaforma internet oppure adesso direttamente si rivolgerà all'editore di carta? Beh, Wattpad, diciamo, è stato proprio il sito in cui è nato tutto, quindi sicuramente continuerò a pubblicare storie lì, anche perché ho tante cose da raccontare e di certo non mi fermerò qui. Poi ovviamente se si presenteranno altre opportunità di pubblicare anche altre mie storie, ovviamente le accetterò volentieri. Cristina, My Dilemma is You. Da che cosa arriva questo titolo? Il titolo è preso dalla canzone My Dilemma di Selena Gomez, proprio perché ho preso spunto da questa canzone per scriverlo, quindi avevo deciso di appunto mettere lo stesso titolo della canzone. I heard the rumors, but Grazie per essere stata con noi, a Cristina Chiperi, in bocca al lupo per il libro, in libreria questa volta. Grazie mille a voi. E allora facciamo una piccola pausa, poi torniamo a parlare ancora di un altro fenomeno editoriale, di una giovane esordiente, anche lei con origini straniere, tra pochissimo. Radio 24 ti porta nel vivo del Festival di Sanremo. Ogni giorno Enrico Ruggeri ci racconterà le emozioni e i personaggi da un punto di vista speciale, quello di chi partecipa alla gara. Appuntamento con il Sanremo di Ruggeri, dall'8 febbraio nel GR delle 7 e in effetto giorno. Nella stessa settimana, con Il Falco e il Gabbiano, speciale Sanremo, alle 15.30, riviveremo insieme gli anni più significativi di questo grande evento. Inoltre, come sempre, con l'inviata Marta Cagnola, la cronaca del festival. Novità e curiosità nei giornali radio e nei programmi. Radio 24, la passione si sente anche al festival. Ascoltaci anche in digital radio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah. Girl, I hope you're sure what you're looking for. Cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Continuiamo a parlare di successi editoriali di giovanissime che hanno radici fuori dall'Italia. In questo caso la nostra ospite è Sabrina Efionai. Buonasera Sabrina. Buonasera. Italiana ma nigeriana di origini, Sabrina è nata a Castel Volturno, è giovanissima. Quanti anni ha Sabrina? Oh, io ho solo 16 anni. Frequenta il liceo la mattina, ma di sera scrive, legge e ha appena pubblicato prima su Wattpad, questa piattaforma community per autori online, e adesso con Rizzoli questo romanzo Over. È un romanzo che lei ha scritto, mi pare di capire, a puntate prima online, no? Esattamente, lo scrivo un capitolo una volta a settimana o una volta ogni 10 giorni, come la scuola mi permetteva. E sì, ho iniziato a scrivere che avevo più o meno 14 anni, quindi molto presto. Siamo impressionati veramente, perché questo è un romanzo anche diciamo dal punto di vista non solo della scrittura ma proprio della lunghezza, sono 400 pagine di intreccio di una storia di una ragazza 18enne, ambientazione americana, formula anche questa del romanzo romantico. In questo romanzo però, oltre che l'amore, c'è anche della droga, c'è anche del sesso, una storia travagliata. La trama parla di questi due ragazzi un po' inquieti, no? Mi ha stupito che anche in questo romanzo, come nel precedente di cui abbiamo parlato, l'ambientazione è in America. Sì, tra Boston e Londra si divide un po' la storia, la trama. Beh, perché comunque noi giovani adolescenti, sia italiani che non, abbiamo comunque un sogno all'estero. Ci piacerebbe, come dire, ampliare i nostri confini, i nostri orizzonti. E diciamo che è più facile immaginarsi una trama, un racconto in un'altra città, in un altro paese, che proprio qui, girando all'angolo. Visto che lei ha una storia molto particolare, genitori appunto nigeriani che sono arrivati in Italia, è cresciuta tra Castel Volturno e Scampia, quindi già è una realtà piena, densa di spunti, anche letterari, come mai non abbia deciso di parlare della sua realtà? Beh, perché la mia realtà è un po' più particolare e poi un lieto fine o no, non so se ce l'avrà. E diciamo che ho preso comunque sì le idee, gli spunti da ciò che mi circondava, i miei compagni di classe, chi frequentava il mio quartiere, ma diciamo che ho preso tutta la mia realtà e l'ho aggiunta ad una più esterna che non mi apparteneva. Sono stati degli spunti per poi invece trasportarli in un'altra realtà, magari più leggera. Era forse anche esatto. Questo l'intento, no? Sì, esattamente. When I first saw you from across the room, I could see. Ecco, chi l'ha spinta a scrivere? Come è accaduto che lei a un certo punto, ragazzina, 14enne, si è messa a scrivere? Diciamo che sono cresciuta da sola, nel senso che mi sono prima appassionata alla lettura con i libri, poi ho cercato di scrivere la mia storia, intesa come il mio racconto, i miei testi, da sola. Perché diciamo che da dove venivo, nella mia scuola erano tutti molto più distratti, non avevamo lo stesso modo di pensare, e mi sono creata, per così dire, un mio mondo, qualcosa di mio. E mi sono spinta appunto alla scrittura. E poi a un certo punto l'ha chiamata Rizzoli, l'editore. Immagino, esatto, che sia stata una telefonata abbastanza inaspettata. Assolutamente sì, anche perché era giugno, prima della telefonata c'erano scambiati le email, e già da lì, nonostante avessi controllato, io non potevo ancora crederci, ero stupita, ero sicura che fosse uno scherzo. E invece era proprio così. E adesso lei è una scrittrice, da poche settimane è una scrittrice in libreria. Che effetto fa passare dall'online, dal successo online, a successo in libreria, conclamato da una casa editrice, diciamo, tra le più importanti in Italia? Già, assolutamente, la Rizzoli comunque è una grande casa editrice. E sì, è un'emozione assolutamente indescrivibile, perché passi dal leggere i tuoi racconti dietro uno schermo a vederli proprio nelle tue mani. Ed è un'emozione, diciamo, che davvero non si può descrivere, è un sogno che diventa realtà, se non di più, anche perché non se lo aspettava nessuno, io compresa, perché anche se ho sempre amato la scrittura, non ho mai pensato che potesse arrivare a tanto. Chi sono i suoi scrittori di riferimento? Allora, i miei scrittori si dividono un po', nel senso che ho degli scrittori moderni, delle scrittrici moderne che apprezzo molto, come Penelope Douglas di Mai per amore, ma mi piace anche la scrittura un po' più classica e violenta, se possiamo definirla così, come quella di Charles Bukowski. Tra Bukowski e la letteratura più rosa. Esatto, mi divido molto. Ma si divide nel senso che parallelamente sta scrivendo anche in due stili diversi, e che tiene da parte un romanzo alla Bukowski che forse prima o poi arriverà in libreria, oppure quella è soltanto una passione da lettrice? No, è una passione da lettrice ma anche da scrittrice, perché sì, forse mi sto allargando un po' nello stile di Bukowski, anche se è inimitabile, ma ci sto provando. Allora, raccontiamo qualcosa di lei. Lei, dicevamo, è nata da due persone che sono immigrate dalla Nigeria in Italia. Era molto piccola e la mamma ha avuto qualche difficoltà, no? Ci racconta lei com'è andata? Sì, già da prima che io nascessi, quando mia mamma era incinta di me, mio padre, per così dire, si era già trasferito in Francia. Cioè, si è trasferito in Francia poco dopo. Io non ho avuto il piacere di conoscerlo, se così possiamo dire. Infatti l'ho visto soltanto una volta, quando avevo 12 anni. Ma subito dopo la mia nascita, mia mamma viveva qui a Napoli, a Castel Volturno, già da qualche mese. No, cioè già da qualche anno. Ed era amica della sua vicina di casa. E quando ho compiuto 11 anni, a causa delle sue, per così dire, problemi economici, ha dovuto darmi in affidamento a questa signora, che ora è la mia attuale mamma fidataria, con cui mi trovo benissimo, assolutamente. E mia mamma, diciamo che da immigrazione a Castel Volturno, è immigrata anche a Firenze, dove vive tuttora. Quindi insomma, la sua mamma naturale, la mamma nigeriana, adesso vive a Firenze e l'ha data in affido a questa signora italiana, a questa coppia di italiani, no, che sono la sua seconda famiglia. Esatto, sì, esattamente. Però io con mia mamma, quella biologica, ho un bel rapporto, perché la vedo tutti gli anni, in estate, a Natale, o viene a trovarmi durante le feste. E anche con la sua famiglia affidataria. Sì, assolutamente. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger. And Castelvolturno, Scampia, lei ha vissuto in un contesto anche difficile socialmente, in cui però lei, anche da straniera, ha trovato la sua strada, e la sua strada è quella della scrittura. Come hanno recepito i suoi genitori, sia i genitori affidatari che la mamma, che il papà che sta in Francia, questa sua passione prima che fosse famosa e adesso? Beh, con mio padre in Francia non credo lo sappia, perché appunto ho tagliato i ponti, non abbiamo più rapporti purtroppo, ma per quanto riguarda la mia famiglia, quella che c'è ora, sono rimasti tutti quanti stupiti tantissimo, perché sapevano della mia passione per la lettura, ma non per la scrittura. Infatti ho dovuto rivelare la notizia proprio quando la Rizzoli mi ha chiamato, quindi immagina lo stupore di tutti a casa che comunque mi aiutano tantissimo, mi seguono tantissimo ovunque io vada, mi accompagnano sempre a Milano, sempre, sono molto presenti, soprattutto la mia mamma biologica, eravamo tutti insieme quando avevo avuto la notizia. Poi mi hanno accompagnata a Milano per il contratto, sia mia mamma biologica che la mia mamma affidataria. È un'emozione grandissima. Sicuramente una storia di successo per una famiglia che ha avuto delle difficoltà, quindi saranno doppiamente orgogliosi di lei. E al liceo come hanno appreso questa notizia? Beh, per i miei compagni di classe era un po' la stessa cosa, nessuno ci credeva, dai, ma è impossibile e tutto. Poi io l'ho dovuto dimostrare, e sì, sono anche loro rimasti a bocca aperta, e per fortuna anche loro sono molto orgogliosi di me e mi supportano tantissimo. Assomiglia questo romanzo che è uscito su carta a quello che aveva scritto online? Allora, è lo stesso romanzo, sì. Oppure sono state cambiate le cose perché l'editor magari ha chiesto, spingi più di là, va più in questa direzione? Sì, sì, certo, questo sì è successo. È lo stesso romanzo con la stessa trama e gli stessi svolgimenti, però abbiamo asciugato molto il testo, magari abbiamo tolto delle parti che poi saranno riprese in un secondo libro, o qualcosa che era un po' troppo forte lo abbiamo sostituito, ma non ci sono cambiamenti proprio, come dire, che rovinano la trama, che può essere meno amata di come era online. Quindi c'è l'idea già di un secondo libro? Ho capito, sì, male. Perché è una trilogia. Sta già scrivendo per la carta la seconda parte, la terza, oppure pensa di passare comunque attraverso Wattpad, questa piattaforma per autori online? Beh, questo è ancora in realtà un elemento, dicendole che non è ancora stato deciso con sicurezza, però io per ora sto scrivendo, magari scrivo e lo tengo, allora lo lascio sul mio computer, poi quando mi daranno il via per la pubblicazione su Wattpad o in carta, beh, ve lo annuncerò. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry, I hope. Come l'ha cambiata la vita da quando è stato pubblicato il libro? È cambiata decisamente in meglio, nel senso che adesso mi trovo molto più aperta, perché ora tutti sanno di quello che una volta era il mio segreto, quindi non ho più nulla da nascondere. E è cambiata anche perché mi sono ritrovata, trasportata in un'altra dimensione, nel senso mi sto muovendo spesso, mi devo equilibrare tra le interviste oppure tra i compiti a scuola, essendo comunque giovane, e sì, è un po' difficile dividersi, però con l'aiuto di mamma e dei compagni di classe mi sto equilibrando. A quando Sabrina e Fionai scriverà un libro su una realtà più vicina, no? Scampia, le origini immigrate, la Nigeria, Napoli come la vive lei, perché questo talento letterario sarei curiosa di vederlo anche esercitato su un'ambientazione non fantasy ma più vicina a una realtà italiana. Ci ha mai pensato? Sì, ci ho pensato, me l'hanno chiesto anche la mia famiglia, mi ha detto perché non hai scritto di Napoli, della tua vita invece di fantasticare. Beh, probabilmente ho bisogno ancora di qualche anno prima di crescere in questo mondo per poterlo mettere in carta. Ho bisogno di più esperienze, ma è un'idea che prendo sicuramente in considerazione. Pensa che avrebbe avuto altrettanto successo una storia ambientata a Scampia? In realtà penso di sì, perché se parliamo di Scampia come Scampia, chiunque siano i loro personaggi, c'è una realtà di Scampia che non tutti conoscono, che forse dovrebbero soffermarsi molto di più. Se riuscissi a scrivere un qualcosa del genere, soprattutto sotto il mio punto di vista, che ho vissuto a Scampia quasi 10 anni e continuo comunque ad esserci a Scampia, molti resterebbero stupiti, perché una cosa è viverla dall'esterno e un'altra è viverla dall'interno. Grazie, grazie a Sabrina e Fionai per essere stata lei con noi questa sera. Grazie, in bocca al lupo per il prossimo volume. Ok, grazie a lei, buona serata. Grazie a Valeria Bernardi in regia, a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo sabato prossimo sempre sulle frequenze di Radio 24. Buona serata a tutti, ciao. You've got to give a little. That's the glory.